penso che tu mi debba delle scuse. Ora che so che vali la metà, conta di più la mia scommessa. Tra le righe male non va. Troppo sarcastico, piangono le viole per me. Dimmi perché giochi con i miei sogni. Cos'è che cerchi ma non c'è? Per sempre tu, amore romantico. Per sempre tu, come no, lo so, piangono le viole per me. Baby.